fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sabato 21 luglio 2018, le 2:05 del mattino, in questo preciso istante. Questo è sempre Risto Radio Convento, sempre in compagnia dei festeggiati. E questa è un'intervista veramente molto particolare, perché non è ilare la cosa, sembra un po' la classica barzelletta del francese, del tedesco e dell'italiano. E è veramente così, è una storia bellissima che racconteremo in questi minuti. E potrebbe partire veramente così, perché c'era una volta un albanese greco con una cinese nata in Italia. Sembra un gioco incredibile, ma è veramente la realtà. Ce la racconterà il festeggiato, il protagonista, che è qui con noi ai nostri microfoni. Benvenuto. Ciao a tutti. Oh, benvenuto. Come ti chiami? Già questo è un programma. Allora, mi chiamo Olsi. Olsi? Vuol dire qualcosa? So che te l'avranno chiesto chiunque, ma... Sì, mia madre diceva che era il nome di un eroe albanese. Un eroe albanese, ok. Non so... Non ha traduzioni, però, no? Penso di no. No, ok, non hai mai indagato? No. Ok. Olsi, benissimo. Quindi, ripeto, è tutto vero quello che abbiamo detto pochissimi minuti fa. Un po' greco e un po' albanese, perché? Raccontaci. Allora, mia madre è albanese, mio padre è greco. Io sono nato in Albania, ma sono cresciuto in Grecia. E a 15 anni sono andato in Italia. E a 15 anni ti sei trasferito in Italia per studiare, poi lo racconteremo. Quello che intanto voglio capire è come un albanese, scusami, un greco e una albanese si sono conosciuti, dove soprattutto? Allora, erano i periodi di guerra, diciamo, perché c'era la guerra civile, sì, in Albania, quei periodi. E c'era una parte dell'Albania, della Grecia, che era Grecia all'epoca, che la Grecia ha regalato l'Albania per, sì, colpa della guerra. Ok. Tipo la Corsica, Italia-Francia, una roba del genere. Esatto, esatto. E il vecchio presidente dell'Albania ha chiuso i confini. Quindi mio padre, che era greco, ha dovuto imparare l'albanese e a fare l'università in Albania. Ah, perché si è trovato lì dentro, insomma. Si è trovato lì dentro e non poteva più uscire. E quindi si è trovato lì, ha dovuto imparare l'albanese e si è fatto l'università a Tirana. Dove, ok, è mia madre. Ok. Dopo un po' sono nato io, poi appena i confini sono aperti, dove c'è stato l'esodo degli albanesi, certo, e loro si sono ritrasferiti in Grecia. Si sono trasferiti in Grecia, ok. Ad Atene. E poi, diciamo, tu fondamentalmente hai preso un po' l'eredità della storia di tuo padre, perché a 15 anni hai deciso di venire da noi per studiare, sì, e sei andato potendo scegliere tra qualsiasi paese dell'Italia, a Bolzano. Allora, era un po' così. Io mi sentivo, diciamo, tanto perso, perché mi sentivo, ero un po' albanese, un po' greco, però alla fine non mi sentivo niente, no? Sì, e sì, avevo voglia di cambiare un po' l'area. Di trovare un'identità anche, magari. Esatto, anche quello, no? E mio padre mi ha detto: senti, se vuoi ti possiamo mandare fuori, perché ci sarebbe a Bolzano, in Italia, questa specie di comunità, mi hanno raccontato, anzi mi hanno raccontato che era tipo un collegio americano. Sì, sì, college, sì. Esatto. E quindi, volendo, puoi andare là a studiare, giusto per fare un paio di anni. Sì. Così vedi un po' cosa vuoi e poi ritorni indietro. Arrivato là, non era un collegio come abbiamo spiegato, era una comunità che praticamente raccoglieva i ragazzi che abitavano per strada. Sì. E io lì mi sono trovato ad abitare per strada, perché non avevo quello che mi avevano raccontato. Quindi alla fine loro mi hanno accolto. E da lì è iniziata la mia avventura. Diciamo. Eh sì, perché è nata veramente una storia incredibile, perché sì, tu avevi anche un'idea in testa, una passione, forse un sogno, che era quello di lavorare come dentista, mi raccontavi, esatto, poco fa. Sì. Diciamo che, metaforicamente parlando, usando il calcio, hai preso il palo, però non ci sei andato troppo lontano, perché raccontaci cosa fai. Perché praticamente mi hanno proposto lì, mi fa: guarda, la persona, insomma, il responsabile del centro mi fa: guarda, dentista non possiamo fartelo fare perché serve la laurea, sì, però possiamo farti fare lo dotto tecnico, che basta anche la maturità. E alla fine ho fatto quello. Diciamo che, tornando al calcio, hai preso il palo, ma non, esatto, sei andato, non sei andato, non troppo andato lontano. Troppo lontano, ma insomma siamo lì vicino in quell'ambito là. E poi, dicevo, cosa succede? La vita non ti ha regalato abbastanza sorprese e non ti ha, come dire, il famoso melting pot. Non so se conosci il termine inglese. Melting pot significa un miscuglio di provenienze, di influenze, di regioni, di vita. Già ne hai parecchio di tuo, e per l'altro 50 della tua vita, appunto, la vita ti ha regalato una sorpresa altrettanto gradita e altrettanto strana. Perché poi chi hai conosciuto? Ecco, e poi dopo la maturità ho deciso, alla fine mi ero fatto un po' di amici, ho deciso di rimanere, qua. Certo. E ho conosciuto una ragazza, cioè? Tramite il mio amico Daniele. Ah, che è lui? È lui. Oh, guarda, pensa al caso che ha voluto il protagonista di questo incontro qui ai microfoni. Tramite lui ho conosciuto questa ragazza che si chiama Sabrina. Sì. Che lei è di nazionalità cinese, ma alla fine è nata in Italia. Nata in Italia, ma cinese, ok? Cinese, dai genitori cinesi, ma nata in Italia. E ho conosciuto lei alla fine. Quanti anni fa? È successo, boh, 5 anni fa. 4 anni fa. 4-5 anni fa, vabbè, ok. Quindi alla fine ho deciso di rimanere qua. Vabbè, anche perché diciamo che c'era un buon motivo, al di là del lavoro che sognavi, anche insomma, una persona importante. E quindi alla fine niente. Oh, è come ogni bel libro di fiabe che si rispetti, adesso è finalmente arrivato il momento di celebrare, insomma, sì, un bel matrimonio. Diciamo che sarebbe una storia un po' più lunga, ma noi la facciamo un po' più breve. Sì, assolutamente sì, ma la grande domanda che mi viene proprio dal profondo del cuore è: dove vi sposerete in tutto questo? Cioè, avete tracciato 4 segni sulla cartina geografica, allora, e trovato il punto nel centro? O allora, noi siamo di Bolzano, sì, però abbiamo deciso di farlo a Milano. Perché vedi, era troppo facile fare, esatto, farla a Bolzano. No, certo. Ci sono circa 250 invitati. Che vengono però da più o meno dovunque. Sì, quindi tanti cinesi, un po' greci, un po' albanesi anche. Ed è giusto, insomma, portarli anche comodamente a raggiungere la meta. E lì è comodissimo, infatti, per questo. Quindi a Milano. Ok, ok. E adesso parliamo, perdonami, anche con come dire, il colui che ha fatto sì che accadesse tutto questo, Luca, giusto? Daniele. No, Daniele, perdonami, ho avuto un attimo di buio. Daniele, tu conoscevi quindi Sabrina? Certo. La conosci, era già tua amica. E svelaci un po' di retroscena, se ti va, visto che tanto ormai è fatta, o speriamo che sia fatta, cioè speriamo di sì. L'hai presentata ad Olsi con la consapevolezza, magari la speranza che potessero essere fatti l'uno per l'altra, o c'è stato del caso in mezzo? Ma certo, si sono conosciuti proprio qua al convento. Davvero? 4 anni fa. Bellissimo. Sì, era proprio la prima serata qua. Fantastico. E come mai secondo te potevano essere compatibili con queste storie anche così particolari? Diciamo che io avevo già sentito entrambi, sapevo che ti piaceva una vicenda, c'erano altre retroscena di cui magari non parliamo, ma comunque si piacevano. Sì. Quindi è un po' il confessore anche. Sì, cioè, perché sì, arrivato da una campana e dall'altra. Esatto, esatto. E niente. Cazzo, 4 anni dopo si sposano. Hai visto? Quando dicono che una persona può fare. Chi l'avrebbe mai detto? Quando dicono che una persona può far poco, pensa te cosa ha combinato Daniele nel fondamentalmente alla fine farvi solo parlare. Perché a questo punto, se tu sapevi dell'interesse di una e dell'altra, non è stato molto difficile scegliere. Adesso dai, si conoscevano, li conoscevo entrambi. Esatto. Li abbiamo fatti parlare, non è solo mio il merito, ma comunque. Sono contento di come è finita. Immagino di sì. Sta finendo. Immagino di sì. Come procederà. E sono tutti e due dei bravissimi ragazzi. Bene, bene. Tra l'altro, sto anche per diventare papà. Esatto. Ah sì? Fantastico. E a che mese è? È appena entrata nel quarto. Ah, beh, quindi c'è ancora tempo, diciamo. Siamo ancora all'inizio. Per buttare giù la cosa, ecco. Ah, no, perché non. Sta per nascere un piccolo alba greco-cinese. Esatto. È un po' tante cose. Se fa il calciatore è quello con più scelte nel mondo di dove giocare, esatto. È il più misto dei misti. Esatto, incredibile, ha tutte le scelte del mondo. E benissimo, guarda, veramente una storia incredibile. A questo punto che lavoro fa la tua futura moglie? Perché ho paura a sentirlo dire. No, lei praticamente aveva un ristorante con la famiglia. E adesso hanno anche un bar. Ah, perché loro sono tutti qui invece? Sì, tutti qui in Italia. Okay. Adesso gestiscono solo il bar. Ok, quindi fa titolare, barista. Sì, titolare. Ristorazione. Sì. Ok. Sì. Quindi sabati e domeniche. Aia. Ah, ogni tanto sì, ogni tanto. Ogni tanto riesce a liberarsi. Sì, sì, sì. Riesce a liberarsi, ok, molto molto bene. Ok, allora volete dire qualcosa, ragazzi? Volete insomma dire qualcosa a microfoni? Non lo so. Beh, io vorrei dire alla Sabrina. Ah, certo. Ecco, che comunque la amo. Che comunque il piccolo paragolo che sta per arrivare sarà la cosa più bella che mi sia mai capitato. Dopo tutto quello che mi è capitato in questo mondo. E beh, che l'amo tanto. E che spero. Sabri da qua non si vede, ma quasi quasi, sì, gli scende una gocciolina dagli occhi. Anche due forse. Anche due. Ecco. Va bene, dai, meglio non dire troppo, se non facciamo solo. No, vabbè, vabbè, bello, bello, veramente da pelle d'oca, quasi un bellissimo messaggio, un bellissimo. Hai trasmesso, insomma, tutta la tua emozione. E guarda, ti dico, io non sono nessuno nel mondo, ma quello che ho capito tante volte è che la vita a volte sceglie delle persone per saper vivere un certo tipo di vita speciale, e probabilmente ha scelto te perché eri in grado di vivere questa vita così speciale. E quindi sentiti, non dico onorato, ma sì, insomma, scelto dalla vita. Sì, diciamo che la vita è un po' complicata a volte, di comportare a fare casi. Però guarda che storie hai da raccontare. Guarda cosa puoi raccontare. Potrei quasi quasi scrivere un libro. Esatto, sì, esatto. Sì. Hai già una biografia finita da milioni, da milioni e milioni di cose. Però, come ti dicevo, sii orgoglioso delle esperienze, delle avventure che puoi raccontare a tutti, perché davvero non è comune la cosa ed è bellissimo. Sì, sì. Diciamo che ho avuto anche le mie difficoltà, però ho avuto come anche tutti, amici, come tutti, familiari che mi hanno. Come tu. Va bene, dai, allora ti lasciamo andare a festeggiare nuovamente. Bene. Già lo facevi e continuerai a farlo. E in bocca al lupo per tutto. E buon divertimento. E in bocca al lupo per quello che sarà. Grazie mille anche al tuo amico che ti ha accompagnato. E sono certo ti accompagnerà ancora per tanti e tanti anni. Alla prossima, ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie.